Benvenuti a tutti, benvenute, buonasera. Anche questo lunedì ci troviamo tutti insieme di nuovo per la presentazione di un libro. Questa sera ringrazio in particolar modo Alessandra Gendron e Gabriele De Luca che ci accompagnano nella conoscenza di questo libro che è già stato presentato al Cristallo con grande successo alcuni mesi fa. E oggi vogliamo riproporlo qui in biblioteca, anche perché chi fosse interessato alla tematica può prendere visione poi del libro, approfondire l'argomento con altri documenti qui presenti. Ecco, io non vorrei aggiungere altro se non appunto ricordare anche i prossimi appuntamenti, rimandiamo sempre gli inviti ricordare anche che la biblioteca si occupa prevalentemente di aspetti di documentazione di tipo locale. La prossima settimana sarà la volta di Utris, che abbiamo mandato qui negli appuntamenti, Sergente Dubi di Gianfranco Giacomuzzi. Poi ci sarà invece il 10 marzo l'Insocievole Socialità e infine il romanzo di Paolo Crisi Carnevale, L'amaro caso di Ray Mazzarino. Un collega della biblioteca civica che viene a presentare qua i suoi romanzi, insomma. Bene, allora cedo la parola e vi ringrazio ancora della vostra collaborazione. Qui questo microfono deve rimanere qui o devo tenerlo in mano? Non lo so. Allora, sarebbe preferibile tenerlo in mano perché così si riesce a sentire bene. Io penso che si senta abbastanza, perché questo sta vogliamo facendo... Vogliamo toglierlo? Proviamo. Perché dipende anche un po' dal relatore, no? A volte... No, io non vi sbiglierò. Ecco, a volte purtroppo qualcuno parla un po' sottovoce ed effettivamente fino in fondo non... No, ma mi sembra che stasera sia una serata da... Facciamo così, che se qualcuno non sente lo dice, così poi usiamo il microfono. Ok, allora io mi presento velocemente, mi autopresento velocemente, sono Gabriele Di Luca, fondamentalmente... sono qui a titolo di presentatore e io scrivo per il Corriere dell'Alto Adige, faccio alcuni corsivi sul Corriere dell'Alto Adige, poi sono insegnante di seconda lingua, faccio il traduttore faccio anche adesso un dottorato di ricerca alla LUB in ambito di glosso didattico, questo per quanto mi riguarda. Alessandra Zendron è ben più famosa di me. È una persona che ha anche svolto importanti ruoli, un ruolo importante istituzionale nella nostra provincia, perché è stata in due sezioni vicepresidente del consiglio provinciale. E anche presidente. Però non l'hai scritto anche nella nostra assessora regionale. Sì, una lista di mansioni che... Potevi scegliere. Comunque, poi soprattutto o anche, è stata collaboratrice della RAI per un decennio, della sede di Bolzano, e in base anche a questa esperienza, diciamo autobiografica, poi questa è la premessa per la composizione del volume che presentiamo questa sera, che si intitola per l'appunto RAI Bolzano. Dico due parole anche per spiegare poi un mio atteggiamento che verrà fuori piano piano col tempo. Io sono un sudtirolese di importazione abbastanza recente e quando sono venuto qua, devo dire, sono venuto qua in un periodo anche della mia vita nel quale per me la televisione stava perdendo molta importanza, cioè non la guardavo più, la guardavo passandoci davanti, ma non sostando, non guardando programmi. Quindi il mio giudizio anche l'evoluzione storica della televisione locale è molto ridotto, perché si basa, diciamo, su un materiale empirico molto, molto esiguo. Mi ricordo però una cosa che mi ha... stupì all'inizio, era il primo o il secondo anno che ero qua, e passavo spesso dalla casa di un'amica che aveva ovviamente la famiglia sudtirolese tipica riunita nella stube, e loro guardavano sempre ogni sera questi programmi del Rise and Abozen, e io anche un po' li guardavo con loro ed ero stupito dal carattere veramente, veramente autoctono di questi programmi, cioè comunicavano una radice, si vedeva che avevano una radice nel territorio, anche poi il linguaggio era spesso in dialetto, e io, venendo dalla Toscana, non avevo nessun paradigma per comprendere questo tipo di cosa, e soprattutto non avrei mai pensato che invece fosse qualcosa alla quale i sudtirolesi di lingua tedesca tenevano molto. Adesso, leggendo questo libro, praticamente ho capito di più, cioè ho capito anche quale tipo di sforzi e quale evoluzione lenta, anche difficoltosa, è stata necessaria per arrivare a una produzione televisiva di questo tipo. Allora, adesso cominciamo a dare la parola alla protagonista e io riduco in modo tangibile la mia presenza. Questo incontro lo vorrei articolato in questo modo, cioè io ho ripercorso il libro, ho letto il libro e dal libro ho estratto alcune questioni che secondo me sono abbastanza significative, o quantomeno a me stanno particolarmente a cuore. Io quindi farò una serie di domande, strutturando in questo modo la presentazione, e però poi lasciando anche molto tempo, molto spazio a chi vuole integrare, no, con domande e questioni sue quello che noi andremo dicendo. Il libro è costruito in modo cronologico, cioè quindi si parte dall'introduzione praticamente della radio, delle prime stazioni radiofoniche in Sudtirolo, fino poi attraversando tutta l'epoca che ci divide da quel periodo, fino ai giorni nostri, quindi passando anche per la mutazione, per la nascita della televisione, l'avvento poi dei programmi in lingua tedesca, eccetera. Una cosa che ho notato, e che verrà sicuramente fuori, è che seguendo la storia della televisione e della radio, della RAI, in Sudtirolo, si ha un punto di vista privilegiato sull'evoluzione anche dell'autonomia, quindi anche della storia e delle istituzioni che poi hanno fatto, diciamo, di questa terra quello che questa terra oggi è. E sono proprio due storie più che parallele, addirittura che si intrecciano. Quindi chi legge questo libro ha in modo automatico una visione perspicua su tutta l'evoluzione globale della storia locale. Allora, io per partire, siccome tu sei partita dai tempi, appunto, dell'introduzione della radio, eccetera, fino ad oggi, io adesso provo a fare un discorso a ritroso, e mi sono fotocopiato da internet, dalle pagine che sono sul sito, perché ovviamente come la comunicazione oggi funziona così, tutto può essere preso da internet, e in internet c'è il sito della RAI con i programmi di oggi. E i programmi di oggi, questo io lo dico così, come dire, un po' da profano, vedo che il palinsesto di oggi per quanto riguarda la RAI in lingua tedesca e la RAI in lingua italiana è fondamentalmente molto diverso. Mentre la RAI in lingua tedesca parte alle 18 e finisce più o meno alle 22:30, ma con un programma abbastanza fitto, articolato, con anche colpi di sonda sulla realtà locale di vario tipo, invece la televisione regionale, poi regionale italiana, che comprende sempre Trentino e Alto Adige, anche questa è una particolarità interessante sulla quale forse riflettere, si limita a tre telegiornali in tre zone temporali diverse e basta. Allora, la prima cosa che ti vorrei chiedere, e così me la riassumi anche a me, riassumi alle persone che sono qui che non hanno magari letto il libro, è di fare un quadro anche dell'oggi, cioè come si presenta il panorama televisivo e radiofonico anche dal punto di vista istituzionale oggi, e poi magari torniamo indietro. Va bene. Alla prima domanda so rispondere, alle altre non so perché anche per me sono una sorpresa. Allora, buonasera, sono contenta di essere qui in un posto molto accogliente, devo dire, dove ogni tanto vengo a leggere delle cose e a prendere qualche libro. E allora provo subito a rispondere così sì. Riusciamo magari a affrontare più questioni. Beh, la situazione della RAI locale oggi è, forse bisognerebbe poi aggiungere anche fare qualche accenno anche ai tele TV private, però insomma la situazione della RAI è appunto che i programmi, cioè quello spazio della RAI di lingua italiana sono appunto i telegiornali, ci sono poi delle trasmissioni radiofoniche, ad esempio oggi che è lunedì c'è un'ora e un quarto di trasmissione radiofonica nel pomeriggio dalle 2:15 alle 3:15 più o meno, insomma 2 secondo non è proprio così. L'esofago di Barrett. Sì, cioè oggi si parla di medicina, poi c'è uno spazio il giovedì che è una trasmissione di cultura varia, condotto molto bene devo dire da Paolo Mazzucato. E poi c'è sabato una trasmissione anche di carattere culturale. E questo è tutto quello che c'è. Per i programmi di lingua tedesca invece c'è molto spazio, c'è anche abbastanza spazio per i programmi di lingua ladina. Questa è una, diciamo, novità degli ultimi 10 anni più o meno, che anche i ladini sono sempre apparsi poco, ma invece ultimamente cominciano ad avere spazio. Per il resto i ladini hanno ereditato lo spazio che era dei programmi italiani, che una volta negli anni 80, per tutti gli anni 80, c'erano programmi televisivi italiani il giovedì sera proprio. Quindi insomma per fare spazio non si è riusciti a trovare un sistema per cui tutte e tre le lingue avessero il loro spazio di espressione. E, diciamo, per parlare dell'aspetto istituzionale brevemente, si deve sapere, per chi non lo sappia, che i programmi di lingua tedesca e ladina sono pagati dalla Presidenza del Consiglio, cioè la RAI ha una convenzione, che poi l'ultima convenzione risale anche agli anni 90, che però viene automaticamente diciamo, regolata e prorogata, eccetera. E vengono, diciamo, quasi senza discussione, ci si mette d'accordo sulla parte economica e quindi diciamo, i programmi vengono pagati praticamente attraverso un canale diverso, cioè non è il canale normale della RAI, mentre i programmi in lingua italiana, tutte le cose di lingua italiana, sono programmi che ha la RAI a livello nazionale. A livello nazionale nel 1979, in seguito, io devo andare comunque un pochino indietro per spiegare quello che c'è oggi, nel 1979 e in seguito alla riforma della RAI del 1975, che aveva cambiato profondamente, la RAI era cioè tutto il sistema era diventato un sistema, diciamo, meno, cioè non più monopolistico, che non era stata una scelta di una legge, ma era stata il risultato di un ricorso per via giuridica, giurisdizionale, e in seguito a questo appunto si era arrivati poi alla riforma della RAI con l'apertura alle televisioni che loro si chiamavano libere e che poi invece sono diventate sostanzialmente private commerciali, e contemporaneamente era nata questa convenzione con la RAI fra la RAI e lo Stato, che significava avere il canone, un po' di soldi quindi, e anche degli impegni a rispettare alcune cose, alcune regole così. Allora, in seguito a tutto questo e anche in seguito a questo movimento che c'era stato, diciamo, questa riforma, questa innovazione dello Stato che era stata caratteristica degli anni 70, l'unico periodo, diciamo, in cui in fondo ci sono state delle grandi riforme in Italia. In questo periodo di grandi riforme, una delle cose importanti che erano nate, delle cose nuove, sono state le regioni nel 1970, dettato costituzionale che non era mai stato attuato e che invece viene attuato appunto nel 1970. Questo mette in moto anche dei meccanismi per cui l'aspirazione a vedere rappresentate in uno spazio pubblico con un mezzo sufficientemente, diciamo, moderno come era quello televisivo, da vedere rappresentate appunto le culture locali, trova cioè, fa sempre più pressione e quindi trova poi anche il suo sbocco. E quindi si arriva nel 1979 alla nascita della terza rete, che nel progetto di chi l'aveva inventata, sperimentata nel 1978, anche qui, doveva essere una televisione che dava molto spazio alle culture locali, sia luogo per luogo nelle 20 sedi che erano state previste, sia anche in collegamento fra di loro, cioè praticamente si dovevano creare degli spazi veramente locali, da noi addirittura provinciali, ovviamente, però ci dovevano essere anche degli spazi, che ne so, nord-est, eccetera, eccetera. Nel momento stesso in cui però nel 1979 ha inizio la televisione locale, in quello stesso momento accade che in Italia la spartizione tra partiti politici è proprio uno dei momenti più forti, e quindi praticamente immediatamente la terza rete diventa la rete, una rete data a un partito, cioè come la prima rete era della Democrazia Cristiana, che era il partito maggiore, la seconda era del Partito Socialista, la terza rete diventa la rete del più importante partito di opposizione, che peraltro però condivide molto nella gestione del potere, che era il Partito Comunista. E quindi praticamente nasce un atteggiamento di concorrenza fra le tre reti sul piano ideologico partitico, che lascia completamente fuori la questione della, appunto, cultura locale, dell'importanza di valorizzarla, eccetera. E credo che questo, io ci ho perso un po' di tempo, però credo sia una premessa molto importante per riuscire a capire il destino dei programmi televisivi di lingua italiana nella nostra provincia, perché mentre i programmi di lingua tedesca e ladina sono un impegno che viene, diciamo, non proprio dal nuovo statuto d'autonomia, ma subito dopo lo statuto d'autonomia, perché se ne era parlato negli anni, adesso non voglio dire troppe cose, ma già nella commissione dei 19, negli anni 60 se ne era parlato. I programmi in lingua italiana invece non hanno nessuna copertura extra rispetto al di fuori di quello che è la volontà della RAI di dare spazio. Allora, per arrivare un po' a una momentanea conclusione, e direi questo: la RAI, dopo 10 anni in cui c'erano i programmi di lingua italiana in tutte le sedi, li fece sparire da tutte le sedi, salvo nelle sedi dove delle regioni a statuto speciale, quindi 5 in tutta Italia. E però il fatto che si trovassero in queste condizioni, cioè un po', diciamo così, isolate, fece sì che divennero sempre più deboli, sempre più fragili. Qualche regione, devo dire che li sostenne anche finanziariamente, come ad esempio la Val d'Aosta e così, mentre invece in Sicilia, anche parlo di regioni adesso che erano rimaste sotto speciale, vennero più o meno abbandonati, in Sardegna anche, e nella nostra provincia sostanzialmente sono andati proprio sparendo. Lo spazio c'è ancora, la mattina della domenica intorno in un orario non fisso, ma più o meno 8:30, 9:30, va in onda una volta ogni due settimane un programma locale, che però quando c'è, non so, dello sport, qualche manifestazione eccetera, viene fatto saltare. Ora, la premessa essenziale perché un programma venga visto è che sia fisso, può essere anche 10 minuti, però deve essere sempre in quello stesso spazio, in quella ora, no? A meno che non sia, diciamo, che viene subito dopo un altro spazio fisso, allora può anche essere avere un orario non così perfetto, però comunque sempre in quella posizione. E quindi praticamente oggi siamo a questo punto, che forse ancora per dire la situazione, sulla situazione di Emma, c'è l'altro aspetto, è che la politica locale si è sempre poco interessata a questo aspetto. Io ricordo che appunto negli anni 80 avevamo fatto delle piattaforme a favore anche del Senda Bozen, perché venisse portato da Roma a Bolzano, eccetera. Io facevo parte della rappresentanza sindacale interna della RAI, per cui ce ne eravamo occupati molto, e avevamo chiesto, allora c'era Magnago, presidente della giunta, avevamo chiesto che si occupate anche dei programmi italiani, cioè italiani, tedeschi, cioè tutti e tre. E allora non era veramente un tema, e di recente a me è successo anche, scusate se tiro fuori questo aspetto, ne ho parlato più volte nei 14 anni in cui sono stata consigliera provinciale, più volte ho tirato fuori questo argomento chiedendo anche a tutti di farsi carico dell'importanza di uno spazio di informazione, di formazione, di cultura, di approfondimento e anche di semplice informazione su quelle che sono le cose necessarie, perché io, senza dire adesso perché ci sono, qualcuno dice ah, ci sono tante, tante ore tedesche, ci devono essere italiane, non è questa la ragione, è che se qui viene fatta una legge, se c'è non so, un servizio pubblico eccetera, io guardo sempre il Sendobozen perché lì mi spiegano come posso avere accesso, assistenza, previdenza, tutte cose, non so, invece in italiano non si sa nulla, sì. Cioè, bisogna leggere i giornali, però si sa che c'è un pubblico che legge i giornali e c'è un pubblico che non legge i giornali, quindi diciamo questa cosa è un, diciamo, importante. Però di questo credo che non solo diciamo c'è stato poco, se ne è fatto carico poco la giunta nel suo insieme, ma perché? Perché il presidente della giunta, se gli assessori e comunque i politici di lingua italiana non abbiano mai aperto bocca su questo, chiaramente pensa che non sia un problema importante. Quindi nella politica locale questo non è un problema per nessuno. Mi dai, come dire, adesso no, io appunto anche la mia impressione leggendo questo libro, la mia impressione in questo caso è significativa, perché io non conoscendo niente da questo ho ricavato il mio volo d'uccello su questa, è proprio questo, cioè si parte con la radio, quindi negli anni fino agli anni 20 e poi anni 30, 28, sì, in concomitanza dell'inaugurazione del Monumento alla Vittoria, sì. Questo è anche interessante. Questo lo raccontiamo. Ma e poi c'è praticamente questa funzione è quella di formare, cioè l'agenzia formativa della radio diventa praticamente omologa a quella della snazionalizzazione o nazionalizzazione, cioè questo compito educativo in senso. Quindi è fondamentalmente un istituto italiano, visto come rigorosamente italiano. Questo rimane, e poi qui che volevo arrivare, rimane quasi anche addirittura negli anni 60, fino agli anni 60, quando nonostante fossero proprio negli anni 60 cominciati i programmi, per esempio, televisivi di lingua tedesca, nella percezione comune, comunque forse non generale, ma in larga parte del pubblico di lingua tedesca, si tende ad intendere la televisione italiana, la RAI, come un cavallo di Troia. Tu fai riferimento a un articolo della rivista Der Fahrende Scholast, in cui si parla della RAI come ancora negli anni 60 di un cavallo di Troia della italianizzazione. Quindi, molto bello, secondo me anche molto illuminante per certe questioni che ancora ci riguardano, un capitolo intitolato Trascilla e Cariddi, e sarebbero, diciamo, quei collaboratori di lingua tedesca, quei redattori di lingua tedesca che lavorano per la RAI in tedesco, quindi offrendo il loro servizio al pubblico tedesco, ma sono interpretati dai tedeschi come, diciamo, degli infiltrati dello Stato italiano che occultamente lavorerebbero, pur parlando nella madrelingua della maggioranza, per ancora sobillare o quantomeno mettere in cattiva luce il governo provinciale. Dagli italiani saranno a loro volta visti come, diciamo, un fenomeno abbastanza curioso, però non affine a quelle che erano in quel periodo magari delle esigenze ancora prevalenti di identificazione, di autoaffermazione dell'identità. In questo chiaramente c'è stato fino adesso uno spostamento, però se tu adesso magari illustrassi quelle che poi sono state anche le due date fondamentali, cioè proprio il giorno, nel 1960, si ha l'inaugurazione della nuova sede, e anche lì con una concomitanza curiosa, perché si parlava all'ONU, no, della questione altoatesina, cioè all'ONU viene praticamente debutta la questione altoatesina, quindi diventando internazionale con tutto quello che ne consegue, e poi nel 1966 si apre anche, diciamo, la televisione si apre alla lingua tedesca. Quindi se questo decennio di grande cambiamento è molto importante, se per cenni tu ce lo volessi raccontare. Andiamo a gambero all'indietro. Va sì, bene. A gambero. Poi chi legge il libro torna in qua, straordinario. Sì, no. Beh, forse adesso preciso che nasce, diciamo, insomma, non è la RAI, si chiama EIAR, no? Era la RAI, il radio, insomma, del fascismo, che però poi era nata come insieme di radio libere. C'era URI prima, nasce nel 20-21, c'è anche Marconi, eccetera, che sì. C'è la sua radio, ed è un insieme, una federazione di radio libere. E il fascismo ci mette qualche anno per capire che è uno strumento interessante. Poi lo capisce e allora ne prende possesso, diventa monopolio, la occupa, insomma, eccetera, la dirige molto severamente. Poi ovviamente lì c'è l'agenzia unica per la diffusione delle informazioni, e quindi, insomma, si entra in quella. Il fatto per cui poi il fascismo ne fa uno strumento molto importante di comunicazione, come anche il nazismo, cioè fascismo e nazismo hanno capito molto bene quello che era la potenza, il fascino della radio. E quindi a Bolzano viene fatta, ci sono tre sedi già in Italia, e è la quarta sede in tutta Italia, in una cittadina di pochissimo, scarsissimo rilievo e anche piccolina allora, perché ancora doveva iniziare questo progetto che nasce 10 anni dopo di crescita della città e di progetto della città da 100.000 abitanti. E viene fatta all'improvviso, cioè era stato fatto nel 1927 un piano per l'ulteriore sviluppo con nuove sedi in città importanti. E invece improvvisamente si decide di fare questa sede a Bolzano, che rimarrà sempre una sede molto importante, poi comunque ancora oggi per altri motivi, e viene fatta il 12 di luglio del 1928, cioè la prima trasmissione. Tre giorni prima tirano i cavi dalla via Rio Molino attuale, dove appunto piantano il primo ripetitore, poi ci sono tutti qualche centinaio di metri di cavi fino al Monumento alla Vittoria, perché devono trasmettere la diretta dell'inaugurazione del monumento, a cui partecipò il re e a cui dove fece il discorso il ministro Giuriati, no? Il ministro fascista Giuriati. Quindi per trasmettere questo discorso venne fatta poi continua appunto, eccetera. Adesso questo non voglio togliere questo percorso. No, ma possiamo fare anche a fisarmonica. No, però penso che bisogna dire questo, no? Poi, diciamo, nel 1943 viene sostituita dalla radio, viene semplicemente collegata con i trasmettitori di Vienna e di Monaco di Baviera, perché appunto trasmette in tedesco fino al 1945. E poi pochi mesi dopo la conclusione della guerra nasce la RAI, cioè l'EIAR cambia nome, si chiama RAI, acronimo di una cosa diversa che non Radio Televisione Italiana come oggi, ma comunque. E assorbe anche radio altre radio, sì, radio edizione, e assorbe anche altre radio libere, e poi va avanti così. Allora va avanti come? Finché ci sono qui gli americani, cioè fino alla fine del 1945, trasmette notiziari in italiano, tedesco e inglese. Quando poi sopravviene il CLN, per un po', poco, aboliscono le trasmissioni in lingua tedesca e notiziari. Allora poi gli americani dicono no, non ci siamo, ma comunque voi. Allora vengono rimesse. C'è anche qualche sprazzo di ladino, no? Qui c'è un capitolo in cui si racconta questa storia da uno che si ricorda la prima trasmissione. E poi, diciamo, vabbè, la RAI eredita dall'EIAR mentalità di centralista, cioè tutto quello che vale se c'è una persona brava, se c'è una trasmissione bella, eccetera. I soldi che vengono dati, va tutto a Roma, cioè prima c'è anche un po' Torino, però insomma poi alla fine c'è un centralismo molto. questo praticamente fa sì che, unito ovviamente a altre cose, le esigenze locali non abbiano spazio. Nello stesso tempo voi sapete che appunto nel dopoguerra anche la sensibilità verso le esigenze delle popolazioni di altra lingua, in particolare da noi di lingua tedesca e ladina, non hanno una grande insomma, importanza per lo Stato. Quindi praticamente inizia un tempo in cui si fanno anche trasmissioni di lingua tedesca, se ne fanno anche più ore di quelle in lingua italiana, per quello, però sempre fermamente controllate. E qui è verissimo che, leggendo la storia della RAI, andando, io sono andata a cercare negli archivi, anche l'archivio del commissariato del governo, che era chiuso, e per la prima volta ho potuto anche mettere mano in questi materiali e così, e poi dalle altre parti, si può vedere, proprio attraverso questa storia si può veramente vedere da un punto di vista, diciamo, meno politicante, o non so, meno, quella che è la storia dell'autonomia con i problemi delle minoranze, eccetera, no? Perché appunto quando poi comincia reazione, la protesta da parte della popolazione di lingua tedesca per i mancati adempimenti del governo italiano rispetto al trattato De Gasperi-Gruber, all'accordo De Gasperi-Gruber, e cioè diciamo alla fine degli anni 40 già un po', e poi comunque negli anni 50, ecco, in quel periodo lì insomma anche la RAI comincia un po' a prestare più attenzione. Perché qui bisogna anche dire, questo diciamo anche il risultato che è venuto fuori dalle ricerche del commissariato del governo, c'era un filo strettissimo che univa quasi giornalmente il Leier con lo Stato e anche la RAI con lo Stato, cioè c'era il centralismo ma c'era anche il controllo quotidiano precisissimo su chi veniva assunto, su come erano fatti, cioè che programmi, cioè c'è il controllo anticipato dei trimestrali, cioè dicono quello che si fa, e c'è il controllo anche successivo. E questo va avanti. Negli anni 60, quando nel 61 abbiamo la notte dei fuochi, eccetera, comincia il terrorismo, cioè comincia, e poi c'è l'avvertenza internazionale all'ONU nel 59, Kreisky porta l'Italia di fronte all'assise dell'ONU, poi decide di dire ai due stati che devono mettersi d'accordo perché venga attuato l'accordo De Gasperi-Gruber. L'Italia in quel momento non accetta che sia una questione internazionale, l'Austria invece vuole entrare in questa cosa, e praticamente l'Italia, per diciamo risolvere la situazione, una situazione che gli sta sfuggendo di mano, perché poi il terrorismo nel 61 con la notte dei fuochi praticamente è l'ultimo episodio eclatante, ma in fondo ancora appartenente a una storia precedente, l'ultimo episodio di un terrorismo locale, autoctono, mentre dal 61 in poi cominciano a inserirsi tutti i centri del terrorismo, della violenza internazionale, soprattutto austriaci e tedeschi, ma poi con un ruolo anche dei servizi segreti italiani, che erano infiltrati da tutti, quindi probabilmente c'è ancora tutto, non si sa, ma comunque c'era. Quindi diciamo è un momento particolare. L'Italia che cosa fa? Per adempiere a quello che è la raccomandazione dell'ONU, senza dire, senza dover ammettere che la questione sul tirolese è una questione internazionale, istituisce la commissione di 19, che è una commissione dove finalmente intorno allo stesso tavolo parlano sia i rappresentanti dello Stato sia i rappresentanti locali, e questa commissione lavorò benissimo, tant'è vero che tutto quello che è stato fatto dopo ha come base le discussioni che ci sono, cioè una relazione che è stata fatta dal presidente, che era Renato Ballardini, locali socialista, ma non altoatesini. C'erano i trentini, ma non altoatesini, se non sbaglio. No, c'erano anche gli altoatesini, e c'era anche un ladino. Uno forse, di lingua italiana. mi sembra. Ah, italiana, ah, di lingua italiana sì, sì, c'era sì. solo uno, no? Sì, c'erano, no, poi c'erano i trentini. C'erano i trentini che e erano me li la valeva maggior, la regione. Beh, sì. Certo, la maggioranza sì, sì. erano trentini. Ah, sì. No, io pensavo c'era, no, ma è sempre significativo questo fatto dello scarso ruolo giocato, diciamo, dagli autoctoni italiani in questa, ah, in questa vicenda. Sì, però lì era anche un tempo in cui, diciamo, la regione aveva un ruolo, diciamo, più forte e diverso. Non so se comunque questa effettivamente è una parte interessante anche. Adesso finisco magari questo piccolo, cioè questo piccolo lungo, ma che poi adesso sta arrivando a conclusione. E quindi all'interno io ho letto appunto le discussioni, oltre che la relazione, un po' di discussioni che furono fatte, insomma, dei verbali della Commissione dei 19. Lì è molto interessante perché la questione delle trasmissioni televisive, no, sì, televisive anche, televisive e radiofoniche, cioè di una emittente abbastanza autonoma di lingua tedesca, furono prese in seria considerazione, perché appunto una delle critiche, come è stato già anticipato, era che, insomma, in fondo questa era vista come comunque un'emittente controllata da Roma, che era anche vero, no? Perché raccontavano che dovevano scrivere i testi per i giornalisti, dovevano tradurli in italiano e poi li mandavano indietro, poi c'era il traduttore del commissario del governo che veniva a prendere i pizzini, cioè i foglietti, traduceva, eccetera. C'è uno scambio di traduzioni incredibile per poter controllare tutto, che magari poi non si controllava. Comunque, diciamo, occasione dell'apertura del dibattito nel 1960, del dibattito sulla questione su tirolese, nell'ottobre, era il 12 ottobre, viene inaugurata la nuova sede della RAI. La RAI ha avuto tre sedi, una sede dentro il passaggio che porta oggi sopra il Carambolage, da via Argentieri, avete presente? Sì, sì, sì, sì. Si può salire lì, poi non so se sia sempre aperto, io conosco qualcuno che abita lì, ci sono andata tante volte, una volta era aperto. E se si va fuori si esce praticamente dove fino a poco tempo fa c'era la Alpina Tour Dolomit, cioè quella lì è tutto il palazzo dentro, che ha una grande articolazione con dei cortili, era di proprietà dei Varesco, che era quel negozio, insomma, che c'è lì tutti con via della mostra, si chiama Casa Varesco, e gli abitanti erano loro inquilini. Era la prima sede della RAI, poi dal 28 in poi fino al 31 è lì dentro. E qui ci sono delle cose che sono molto divertenti, secondo me, perché facevano rumore la sera anche alle 9, e quindi c'è uno scambio di denunce, e si rivolgono alla polizia, e la polizia, e poi Leier dice no, ma è interesse pubblico, cantano anche alle 9, dovevano tirare la tenda pesante di broccato perché non si sentisse, e poi non la tiravano perché d'estate era caldo, insomma, una cosa divertentissima. Un po' di cose sono riportate perché secondo me è proprio bella. E questo viene da, sono materiali dell'archivio storico del comune, no? E la seconda sede fu nel 1931, che venne fatto un palazzo nuovo, un palazzo della Cassa di Risparmio, che è quel palazzo che è, diciamo, anche un lato, insomma, smussato tra via Cassa di Risparmio e via Argentieri, no, Argentieri, via Leonardo da Vinci. Via Leonardo da Vinci, dove c'è l'ICEF, dove l'ultimo palazzo, che è Cassa di Risparmio, è tutto un palazzo di proprietà della Cassa di Risparmio, lì c'erano appunto due o tre piani di Eyar, dal 1931 fino al 1960, e il 12 di ottobre 1960 si apre il dibattito all'ONU e viene inaugurata la sede in Piazza Mazzini, sede nuova in Piazza Mazzini, ci sono tutte le foto con tutte le autorità, eccetera eccetera. C'era Forer che l'aveva inaugurata, il Monsignor Forer, perché Gargitter non era ancora di Bolzano, perché allora nel 64 poi la diocesi è diventata, è stata fatta come le due province, nei confini sono stati Va bene, per non disperdiamoci troppo, tanto poi questo è un pubblico colto che sa quasi tutto. Arrivo anche al 66 adesso, sì. Così no, mi interessava rispondo alla domanda. Sulla percezione, sì. Così... Allora, nel 66, insomma, lì ci si sta avvicinando, nel 64 era stata fatta la relazione, consegnata la relazione della Commissione 19. Nel 64 è stato presentato anche il primo pacchetto che viene respinto, perché in realtà è concordato fra Kreisky e Saragat, che sono due socialisti, e la SVP del Nord Tirolo non vuole che siano dei socialisti a risolvere il problema, e quindi su Tirolese si inventa e dice: ma ci sono delle cose che mancano. In realtà poi in quella c'era previsto l'ancoraggio internazionale con cui tireranno avanti per 20 anni, perché quasi quasi neanche si chiudeva, ma comunque va bene. E nel 1966 è una delle, diciamo, delle prime cose significative, ma non è l'unica, ci sono anche altre cose che vengono messe in atto dallo Stato. Lo Stato, di fronte al violento e sanguinario terrorismo che si sviluppò proprio in quegli anni, no? Dal 62, 63, 64, 65, reagì in due modi. Uno, una durissima repressione. Questo ricordo che avevo parlato anche con un ambasciatore a Vienna, Gaia, che parlava di questo, mi aveva raccontato una volta, ho fatto una lunga intervista con lui. Aveva fatto una dura repressione, molto dura, proprio anche con... anche troppo dura, no? Perché poi la popolazione è stata colpita in parte indiscriminatamente, ci sono state le torture, eccetera. E il secondo tipo di reazione è stato quello di fare forti e significative concessioni, cioè praticamente di fare quello che avrebbe dovuto fare negli anni 40, e cioè insomma andare a riconoscere, trovare i mezzi per riconoscere i diritti di espressione alla popolazione di lingua tedesca, fare le altre cose. E il capitolo nel libro si chiama Televisione a sorpresa, sì. Fu nel 1966, proprio inizio d'anno, fu l'istituzione di un'ora, che non era poco, no? Di televisione in lingua tedesca, quindi nasce il Sendabots nel 1966 e ormai ci sembra una cosa scontata, ma dovete pensare che mai una minoranza in Europa, nel mondo, ha avuto una televisione propria, in qualche modo propria, anche se ben controllata, ma comunque all'interno un'ora non era poco, perché comunque i costi televisivi sono alti, eccetera, e quindi insomma non era una cosa da poco, voleva dire un telegiornale tutte le sere, quindi insomma, e questa venne messa sul secondo canale, quindi poi ci iniziarono da subito le polemiche, perché chi voleva vedere una cosa... Io fa parentesi, questa cosa dell'accavallamento, io l'ho scoperto anche io questa cosa tardi, sempre quelli, perché io mi ricordo che quando guardavo poco la televisione, guardavo Rai 3, no? E magari c'era un dibattito politico, più raramente una partita, cioè non spariva, no? Alle 20 e 22:10 spariva, io mi incavolavo, accidenti a loro. Questo è recente. Però poi, ancora adesso è così? No, ma adesso c'è la possibilità. Ma c'è la possibilità. Ci sono due canali. Sì. Bisogna girare. E anche lì, però per caso lo scoprì, cioè, quindi girando come un forsennato sul telecomando, vidi che da un'altra parte, come se ci fosse uno sdoppiamento. No? Sì, lì ci sono due canali, però questo è sul terzo, mentre invece questo era sul secondo, perché il terzo non esisteva. Lì non c'era la possibilità di giocare, a quel tempo non c'era neanche il telecomando probabilmente, quindi uno doveva... No, ma c'erano delle polemiche feroci, no? Perché quando c'erano anche, non so, le... figurati gli italiani, poi partite di calcio, ma neanche per lo sci, perché poi essendo così non cedevano, anche secondo me giustamente, mai, che a me il calcio non mi interessa niente, però insomma, vabbè, adesso io mi fermo qua in questo, no, qua, anche se poi c'è molto da dire, sì, no? Sì, no. 66. Io volevo, a questo proposito, anche della, perché tu hai citato in qualche modo, hai messo in luce quello che è effettivamente uno del filo conduttore del libro, secondo me, cioè questo tira e molla tra istanze aziendali centralistiche e una destinazione invece che chiaramente, rivolgendosi a un pubblico con fortissimi interessi locali, soprattutto quello di madrelingua tedesca, puntava a una autonomizzazione effettiva della programmazione. C'è una citazione interessante qui di Franco Monteleone, che è uno dei pochi, mi sembra, dei pochi studiosi che si sono occupati in modo tematico di questo aspetto, perché questo va anche detto, cioè questo è un libro che, diciamo, non è che ce ne sono molti libri come questo, nel senso che non è che uno dice se non leggo questo ne leggo un altro sullo sviluppo della RAI, cioè questo diventa un, in tedesco si dice Standardwerk, quindi un lavoro di riferimento, va detto, insomma, no? Perché sennò, in cui anche, diciamo, i concittadini di lingua tedesca possono rivolgersi per conoscere l'evoluzione di un mezzo che anche loro utilizzano. Questo dovrebbe essere anche poi il senso, dovrebbe essere pacifico nella nostra comunicazione, purtroppo non lo è, ma sarebbe bene lo fosse. Comunque, Franco Monteleone, una citazione, dice: dietro la giustificazione di una migliore e più efficiente organizzazione produttiva, cioè quindi nel momento in cui si ripensano anche le strutture, qui sta parlando del periodo del 53, quindi siamo, diciamo, a ridosso dell'avvento della televisione, dietro la giustificazione di una migliore e più efficiente organizzazione produttiva c'era il proposito politico di centralizzare al massimo l'intero esercizio dell'attività radiofonica. La costruzione dell'azienda nuova richiedeva la sconfitta di tutte le spinte di autonomia periferica e il blocco di qualsiasi ipotesi di decentramento. Quindi proprio una sorta di dichiarazione di guerra contro ogni tipo di autonomizzazione. C'è anche un'altra cosa, adesso non la trovo, ma mi ha fatto sorridere. Si parlava del fatto che i programmi in lingua tedesca per molto tempo erano in bianco e nero. Mm-hmm, sì. Erano in bianco e nero. Cioè, quando trasmettevano programmi a colori c'era il color killer. Il color killer. E cioè toglievano il colore perché nel rapporto tra la RAI e lo Stato il pagamento avveniva per il bianco e nero e il colore sarebbe costato di più, e fino a quando la RAI non ha ottenuto più soldi non ha trasmesso. Sì, quindi c'era questa schizofrenia perché uno guardava magari un canale nazionale a colori e poi passava. No, ma noi era, per esempio, quando è nata la terza rete, poi effettivamente c'era sullo stesso canale, cioè io ho incominciato con la terza rete a lavorare alla RAI nel 79. E allora noi facevamo i programmi e il telegiornale, i programmi a colori, e poi c'era, allora noi alle 7:15 cominciava, cioè alle 7:15 cominciava il telegiornale locale, finiva alle 7:30, alle 7:30 alle 8 c'era il programma e alle 8 iniziava il talk show in bianco e nero, cioè si passava sullo stesso canale, sulla stessa cosa, che era una cosa proprio offensiva, ma sono andati avanti anni con questa. Però qualche volta traduceva il colore, diciamo, per errori. Sbagliavano e veniva fuori. Ma infatti era divertentissimo, perché lì si diceva ai tecnici: dai, fate qualche errore, dato che insomma così i tecnici. In realtà poi alla RAI è incredibile, perché nonostante questa, diciamo, esterno così separato e incomunicante, è il posto al mondo in Sud Tirolo dove. In realtà c'è dove la gente lavora più mescolata, perché sempre si lavora con i cameraman, con i tecnici, con i, tutto così. Poi lo statuto prevede che i programmi di lingua tedesca siano fatti, anzi la norma di attuazione prevede che i programmi di lingua tedesca vengano fatti tutti ed esclusivamente da personale di lingua tedesca. Per cui praticamente, cioè, i tedeschi possono lavorare per programmi italiani, ma non il contrario. Poi devo dire che ogni tanto anche ci scappa o così, però effettivamente, insomma, in realtà si è sempre lavorato in maniera molto, insomma, tutte le riprese dei filmati, allora c'era ancora la pellicola, fatti degli attentati terroristici, li ha fatti praticamente da solo, perché poi certe volte i giornalisti avevano paura a accompagnarlo. Tito Mose è un cameraman adesso molto vecchio e lui andava con la sua telecamera, oppure Fritz Pichler, anche lui operatore di ripresa, ha inventato la ripresa delle discese dello sci tenendosi la telecamera tra le gambe, cioè la cinepresa veramente, poi le prime telecamere. No, lui è uno dei primi che ha fatto queste cose. Senti, io adesso ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, perché così diamo, visto che, come dire, nel volgere di un'ora risolviamo perlomeno la nostra parte. E qui vado su cose sulle quali sono un po' più sicuro, nel senso che ho più perché è teoria, e siccome mi manca il materiale empirico, fino adesso, anche quando parlavi di dove era la RAI, eccetera, io a Bolzano, mi sono catapultato da Livorno a Bressanone, e a Bolzano ancora devo chiedere la via, certi versi. Quindi, per dire. L'occhio esterno fa bene, ci fa pensare. Sì, l'occhio esterno magari può far bene. Comunque, io qui adesso cito da un articolo, anzi non è un articolo, poi se qualcuno è curioso gli dico anche da dove l'ho preso, comunque non ha importanza. Diceva questa persona, che si occupa anche della comunicazione, eccetera. Tre anni fa, lui scrive qui nel 2003, tre anni fa vi fu di prima mattina una fuga di gas inquinanti dalla fabbrica MEMC, o MEMC, di Merano. Fu trasmesso per radio il consiglio di chiudere le finestre. La redazione RAI tedesca, che usa un canale a lei dedicato 24 ore su 24, interruppe i programmi e dette l'annuncio in tempo reale. La RAI italiana regionale, che trasmette a pettine coi canali nazionali, poté dare la notizia solo nel GR delle 12:10. Risultato, visto che ciascuno ascolta il notiziario solo nella propria lingua, in molti condomini italiani le finestre rimasero spalancate più a lungo. Questo è solo un esempio, ma in realtà se uno volesse raccogliere ne trova moltissimi di questo tipo. E c'è un testo, anche questo molto fatto bene quasi come questo, però di un politologo che si chiama Günther Pallaver, non tradotto in italiano, che si chiama, in tedesco è di Ethnische Albierte Wirklichkeit, che sarebbe più o meno tradotto la realtà divisa etnicamente, ma lui intende la realtà rappresentata, perché parla della comunicazione, nel quale lui mette in luce, secondo me, con grande acume, con grande capacità, l'aspetto fondamentale, prevalente dei media, che è duplice. Cioè, da un lato, nelle realtà come la nostra, da un lato fonda l'identità, perché è identitätsstiftend, cioè in qualche modo, chiaramente, se io ascolto un programma in lingua italiana e faccio parte di quel mondo, mi identifico come tale, se lotto per il riconoscimento dei diritti delle minoranze e voglio il programma in tedesco, lo faccio per riconoscere l'identità. Questa è una funzione che è sancita dalla Costituzione, eccetera, eccetera, e che quindi ha una sua valenza assoluta e non può essere messa in questione. Dall'altro lato, però, gli stessi mezzi di comunicazione di massa dovrebbero avere, dice lui, ma diciamo un po' tutti, anche una funzione pacificatrice. Cioè, va bene la funzione identificante, identificatrice, è giusto che ci sia, ma non può diventare, diciamo, una attività di fossilizzazione del punto di vista, escludendo quindi una realtà altra, perché altrimenti si creano due mondi completamente paralleli e non comunicanti. Quindi ci vorrebbe anche quella che lui chiama funzione pacificatrice, ma più semplicemente anche una funzione di comunicazione, nel senso, posso benissimo far centro su un punto di vista mio personale, usando la mia lingua, però tengo sempre, diciamo, un occhio aperto sull'altra realtà e cerco di far passare la comunicazione, in modo che non si verifichino situazioni come queste, che sono anche semplicemente grottesche. Alla fine del tuo libro c'è un capitolo che si chiama Senda Boots, trilinguismo imperfetto, che quindi, anche se in modo, diciamo, molto elegante, è sempre assolutamente legato alla Sachlichkeit del tema che tratti, sembra contenga, diciamo, delle istanze critiche in qualche modo. Vorrei che tu esplicitassi eventualmente queste istanze critiche e come ti immagini un servizio pubblico per la nostra regione che sia, diciamo, migliore di quello che abbiamo sotto gli occhi. Allora, risponderei, diciamo, prendendola alla larga, perché così riporto l'attenzione sul fatto che, anche se abbiamo cominciato parlando di molto degli aspetti, diciamo, tra virgolette, politici, e anche adesso in qualche modo ci torniamo, in realtà poi questo è un libro di storia che racconta un sacco di storie anche abbastanza divertenti, secondo me, io mi sono molto divertita a trovarle, ho cercato di riportarle, così, tipo quelle dei litigi per il rumore, oppure i litigi di quelli che gli mettevano l'antenna in via Rio Molino e il contadino lottava perché non voleva mollare a lei il suo pezzetto di terreno, e così dà però un'idea del fatto che non si dava assolutamente importanza a quello che, insomma, adesso magari molto sacco. E una cosa che vorrei appunto ricordare in questo momento, poi arrivo bene anche lì, è il fatto che qui viene ben viene raccontato una cosa che in qualche modo anche mi ha colpito lì, perché questa EIAR nel 1928, questa radio Bolzano, viene fondata per italianizzare i sudtirolesi. È evidente perché si è messa la quarta sede dell'EIAR a Bolzano, una città da niente, perché qui le radio austriache trasmettevano con molta forza, trasmettevano bene, allora si mise questo, e poi nel 1934 si fece la nuova trasmittente a Monticolo, molto più forte, proprio per andare contro, e l'obiettivo era l'italianizzazione. E i programmi che si facevano erano, in parte, fino al 1934, non tantissimi perché il segnale arrivava e non arrivava da Milano, erano i programmi che venivano fatti nel resto d'Italia, musica, eccetera, come insomma chi ascoltava la RAI adesso, che sono insomma, i giovani no, ma gli altri si possono ricordare, ancora non era così diversa tanti anni fa. E poi però c'erano un bel po' di programmi locali che avevano veramente suscitato l'attenzione della gente, anche proprio l'emozione della gente, perché un mezzo nuovo, si poteva partecipare, e qui facevano vabbè, anche le manifestazioni, i giochi fascisti, le portavano nelle scuole, infatti non a caso qui nella foto, ad esempio questo libro, poi a un certo momento io continuavo ad andare avanti a trovare cose nuove, e poi lei ha detto 200 pagine chiuso, quindi ci sono 200 fotografie di cui una parte sono bellissime, originali, ma sono state sacrificate, però appunto volevo dire l'apparato fotografico è stupendo, e anche come qualità di foto, però sono troppo piccole certe volte. Vedete anche qui c'è una foto della scuola, perché dappertutto veniva utilizzato, c'era la scolarizzazione, poiché la gente non si poteva comprare la radio, perché mentre negli altri paesi le radio costavano poco, in Italia costava sempre molto, bisognava cambiare. E allora facevano la radiofonizzazione della società, cioè tutte le scuole dovevano avere la radio, perché così Mussolini faceva i suoi discorsi, e poi tutto veniva, c'era la propaganda del regime, perciò. Ecco, però nonostante questo uso, e così la radio suscitò subito una grande cioè espresse tutto il suo fascino, infatti c'è un capitolo intitolato Il fascino della radio, che usciva un po' da questo. E la cosa curiosa era che lo stesso Mastro Mattei, che qualcuno lo ricorda, il prefetto venuto qui nel 1933, il prefetto che progettò l'italianizzazione pensò, essendo qui, e lui fece anche fare il progetto di sviluppo dell'industriale di Bolzano e dell'Alto Adige, quindi. E lui capì che il fatto che ci fossero anche programmi locali, qui c'era l'orchestra EIAR della Radio Bolzano, un'orchestra molto importante, che poi invece viene tolta perché appunto i programmi locali non sono importanti per la direzione centrale dell'EIAR. Invece Mastro Mattei difese questa orchestra EIAR, cercò di difendere i programmi locali, perché capiva che proprio usando un mezzo moderno, ma coinvolgendo la gente, poteva diventare più forte ai fini che aveva lui anche dell'italianizzazione, quindi l'obiettivo cosa. Quindi quello che vorrei dire è che questi mezzi, se usati in modo capace, anche io direi in modo democratico, no? Coinvolgendo le persone, hanno una grande potenza. Un po' internet oggi, diciamo, magari, anche se poi insomma anche lì ci sono differenze. E quindi saltando e arrivando, questo ad esempio si capisce benissimo sulla grande battaglia che venne fatta dalla Volkspartei, e non solo dalla Volkspartei, ma prima che dalla Volkspartei, dal Dolomiten e dal Kulturinstitut. Cioè furono le istituzioni culturali e dell'informazione che capirono l'importanza di questo mezzo. In fondo la Volkspartei allora e in parte ancora oggi interessa solo, come a tutti i partiti, e quanto, insomma, qual è la linea politica, eccetera, sì. Però non riescono ancora a capire tanto bene quanto importante è per la formazione, per lo sviluppo del pensiero, eccetera, il fatto che ci siano programmi, soprattutto programmi, non tanto la notizia, quanto proprio il programma dove uno si può identificare e avere una relazione emotiva. Ecco, io per arrivare a questo, credo di averlo accennato anche all'inizio, ma per arrivare alla tua domanda, io credo che sia questo che manca tremendamente alla popolazione di lingua italiana qui. Come fa a identificarsi? Dove si identifica? Cioè non ci si identifica attraverso giornali che poi tendenzialmente sono anche piuttosto, insomma, nazionalisti, o comunque hanno sempre, se uno guarda, che dice qual è la notizia più importante. In Italia è anche esagerato, perché se si prendono 10 giornali o 15 hanno tutti lo stesso titolo. Questa è un'esagerazione, una mancanza di indipendenza e di libertà. Però se si guardano i programmi italiani e tedeschi, i giornali italiani e tedeschi, qui c'è sempre una differenza, ma insomma non è che c'è la differenza perché non c'è l'omologazione, ma perché veramente c'è un parallelismo nell'interpretare la realtà. Un esempio secondo me incredibile è i notiziari della RAI locale. Allora, i notiziari del TGR iniziano sempre con la cronaca nera. Sarà che a me non mi interessa niente la cronaca nera, la trovo una cosa pazzesca, mentre invece il Sendabozen, dopo anni e anni di lotte ma costruttive, è arrivato a dare le notizie internazionali, anche le notizie italiane, che una volta le notizie italiane veniva sempre internazionale, l'Austria, e poi magari una notizia importante nostra, e poi arrivava l'Italia. Invece adesso c'è un andamento quasi normale nel Italia Show. E questo secondo me è, però qui parliamo di telegiornale e già vuol dire molto, lo mettiamo però un attimo da parte. Invece per quello che riguarda il discorso dell'identificarsi, del creare, io non uso mai la parola comunità, perché per me la parola comunità è una parola che è stata segnata dal nazismo e anche dal dopo, e anche dal razzismo differenzialista degli ultimi 15 anni in maniera troppo preoccupante, però diciamo tra molte virgolette, eccetera, per capirsi, insomma. Però io non penso che adesso ci si debba creare un gruppo italiano che è chiuso, che cioè crea la propria identità esclusiva, escludente, come diciamo è in generale quello che si fa. Però io penso che sia importante che anche rispetto, cioè che gli italiani, che in italiano si possa avere un'informazione, una formazione all'interno dell'autonomia. Faccio un esempio molto molto banale. Io quando ero presidente del consiglio provinciale ricevevo gli studenti. Mi piacevano molto quelli delle elementari di lingua tedesca, perché si facevano tutte le domandine scritte, erano, sapevano tutto, quello per istante. Comunque ricevevo tutti gli studenti. Allora, le poche classi di lingua italiana che venivano avevano la perfetta consapevolezza, sbagliatissima, che il consiglio provinciale è una cosa così, mentre invece il Parlamento è il massimo. Cioè, per me non si. In mancanza di uno strumento di informazione, così, non si riesce neanche a capire che tutto quello che viene deciso sulla nostra vita qui viene deciso qui. E questo, secondo me, basterebbe questo. Però non so, l'altra sera guardavo il Lundo Tisch e c'erano 7 persone che stavano discutendo sui giovani e questa loro tendenza ad andare all'estremo, a usare le droghe, a fare provare tutto l'estremo. una discussione fra 7 persone, nessun politico, dove si faceva, si diceva qual è il problema, come si presenta nelle varie realtà, che cosa si fa, e si fa moltissimo, che cosa, quali sono i gruppi che ci sono, i servizi, eccetera, eccetera, quali sono i problemi aperti, eccetera. Una discussione straordinaria, secondo me, di grande progresso civile. Allora io ho pensato, questa cosa estrema riguarda anche i giovani, giovanissimi di lingua italiana. Bene, io sfido a dire chi sono i genitori, gli insegnanti, gli educatori che sono a conoscenza di tutto quello che la provincia offre. E questo è una cosa semplice, no? Cioè nel Santa Watson ci sono trasmissioni sulla sanità, pagate dall'assessorato alla sanità. E questa è una cosa nuova, una cosa, qualcuno la discute perché dice ma non siamo abbastanza critici, però io sono una persona considerata sempre molto critica, no? Anche un po' znichte o così, però devo dire che prima, per poter criticare, bisogna sapere. La mia grandissima preoccupazione è che questo strumento di informazione, di sapere, che è esistito negli anni 80, perché nei 10 anni che io ho lavorato alla RAI, in questo gruppo di programmisti che eravamo, si era creata una relazione con la gente che veniva, ci suggeriva dei temi, ci diceva vieni qua, eccetera, avremmo che parlassi di questo, eccetera, si è creata così. Non è che sia del tutto manca, ma non è visibile, cioè vengono fatti. Io guardavo oggi, io faccio parte dell'associazione dell'aiuto Parkinson e ho guardato un film che è stato fatto da Paolo Mazzucato su questo, molto bello, eccetera, però chi l'ha visto? Nessuno, mi immagino, perché quando, se lo hanno mandato in onda, l'hanno mandato alle 9 di mattina di domenica, è come se non esistesse. Sì, perché poi quella è veramente una collocazione. Sì, esiste una relazione quasi privata. E ora l'ultima parola sulla privata, c'è qualcuno che dice lo sostituiamo con le televisioni private. E io credo che insomma le televisioni private abbiano anche il loro ruolo, cioè io sono molto per il pubblico, però diciamo che avranno il loro ruolo, visto che i legislatori hanno deciso che ci deve essere un sistema libero, misto, eccetera. Però io penso che sia un altro, io penso che sia importante, che sia detto, specialmente in una situazione come la nostra, quella di avere un emittente dove appunto il confronto sia libero e non dettato dalla priorità economica, la priorità commerciale. Ti faccio una domanda, così magari chiudiamo e poi diamo la parola. Mm-hmm. Tu avevi detto prima che la programmazione del Rise and the Boxing è in qualche modo finanziata dal Parlamento, no? Mentre hai detto prima, non dall'azienda. No, e quindi dunque il Senda Bozza è finanziato dalla Presidenza del Consiglio. Dalla Presidenza del Consiglio, sì, cioè mentre, una convenzione. Questo non potrebbe essere esteso anche alla parte italiana? Allora, ci sono delle, cioè questo non è previsto, cioè la convenzione generale tra Stato e RAI prevede la convenzione locale tra provincia e la convenzione provincia tra RAI e Presidenza del Consiglio per quello che riguarda la programmazione, sì. Cioè insomma gli spazi di lingua di Senda Bozen, diciamo, sì. E anche i programmi ladini. Sì. E quindi bisognerebbe cambiare questa cosa, oppure, cioè io l'ho detto una volta, c'è stato un dibattito. Per i giornali esiste una legge che prevede il finanziamento degli organi delle minoranze, purché siano redatti completamente nella lingua delle minoranze. Sì. Questa è un'aggiunta. Questa è l'aggiunta postuma. Comunque questo è. Comma Ibner, esattamente. Mentre per i giornali italiani questo tipo di discorso non funziona, cioè non penso funzioni, non sono finanziati. No, perché gli italiani sono diciamo la maggioranza, no? Appunto, quindi, diciamo, appunto, quindi... è fatto per le minoranze e forse anche giusto in qualche modo, anche se ad esempio io penso che anche per i giornali l'Alto Adige, che aveva una pagina in lingua tedesca, è stato per tantissimi anni una palestra anche libera per tanti giornalisti di lingua tedesca che non trovavano posto da altre parti e che hanno iniziato lì tantissimi, insomma. Però adesso, perché quella è stata tolta, perché praticamente non conviene più conviene privarsi, questo per me ad esempio è un gran peccato. Comunque io condivido anch'io, devo dire, insomma, il fatto che come agenzia formativa la RAI potrebbe, sicuramente avrebbe buon gioco, avrebbe sicuramente una funzione importante. Sì, dovrebbe avere, però appunto la premessa è quella di avere uno spazio, perché poi è inutile dire come, il quale, così, se non c'è lo spazio non c'è. Certo. E evidentemente insomma c'è l'interesse politico è inesistente in questo momento. Diamo la parola al nostro gentile pubblico. Non so se sia anche la vostra impressione, la mia di sicuro, che da molti anni ormai abbastanza da questa parte, qui in questa provincia, uno che è di lingua italiana si autodefinisce adesso sudtirolese e non alto altoatesino. Ora tutti gli italiani dicono sudtirol, dicono sudtirolese, quasi quasi avessero come timore a dire altoatesino, alto adige. Non so se sia la mia impressione, ma mi pare che sia così. E la domanda mi è suggerita dal fatto che lei stesso all'inizio ha detto io sono un sudtirolese immigrato, mi pare, ha detto, no? Sudtirolese, ha detto. Mi meraviglia che non abbia detto altoatesino per Bacco, alto adige. Abbiamo, guardi, ci hanno a poco con la propaganda, anche benevola si capisce, abituato a dire sudtirolese e non altoatesino e non alto adige. È una cosa stranissima. Questa è la prima cosa che volevo dire. Poi la faccenda dei programmi ridotti in lingua italiana è perché si capisce che la maggioranza della popolazione in Alto Adige è di lingua tedesca, no? E allora forse sarebbero, ovviamente sarebbero meno ascoltati, ma ovviamente sarebbero utili, ovviamente, se ci fossero questi programmi anche in lingua italiana, ma sono ridotti perché prevale appunto la lingua tedesca, è più ascoltato, no? Quello che più si vende è quello che più si può far vedere o far capire alla gente, è sempre quello che prevale, insomma, no? Vabbè, ma questa era un'altra cosa. Mi incuriosisce questa storia dell'altoatesino sudtirolese che ha detto lei. Ha subito anche lei questo fascino della parola sudtirolese? Questa è una domanda rivolta principalmente a me. Non so. Io lo usavo già nell'80, forse non ero ancora nato, anche per gli anni però 70. Non so che impressione anagrafica desto, ero nato. No, io la uso, se io la parola la uso, diciamo, non penso di essere stato condizionato. Se il termine condizionare significa esposto, diciamo, a una radiazione negativa che mi ha mutato geneticamente l'intelletto. Io assumo sul Tirolo fondamentalmente perché io quando stavo in Toscana e leggevo le prime cose che ho cominciato a leggere su questa terra le ho lette da Alexander Langer, e Alexander Langer parlava di sul Tirolo, e oltretutto lui aveva coniato un'espressione tradotta sarebbe sul tirolese o sul Tirolo indiviso, cioè non frammentato, e lui spiegava che il termine Alto Adige invece porta con sé, diciamo, una matrice storica che allude in modo abbastanza evidente alla divisione. Non a caso il termine Sud Tirolo storicamente veniva utilizzato anche per comprendere il Trentino, cioè si parlava di Tirolo meridionale e Sud Tirolo, aveva in qualche modo una valenza più larga, ne parla Gatterer, per esempio, nel libro Beseleute. Quindi sul Tirolo per me poi adesso mi impunto sull'uso di sul Tirolo perché è un termine che in qualche modo è una nuova creazione, cioè perché è una traduzione di sul Tirol. È una traduzione di sul Tirol, quindi in qualche modo allude a qualcosa di nuovo, cioè un neologismo, non ha una patria, per esempio, giuridica, cioè in nessun documento si parla di Sudtirol, si parla sempre di Sudtirol Alto Adige, ma vedere sempre Sudtirol e Alto Adige col trattino, Sudtirol Alto Adige, ai miei occhi è la certificazione continua ed estrema di una società divisa in due che a me non piace particolarmente. Quindi uso Sudtirolo, a volte come vezzo uso anche in tedesco Südtirolo, cioè uso un nome solo, una, cioè una cavolata che non c'è, ma... Sì, per scherzo. Ma la traduzione italiana è sul Tirolo. Sì. Si parlava, diciamo che il Südtirol era anche Trentino, una volta appunto sì. Sotto l'Austria. Sì, Belstirol da Südtirol. Hanno dichiarato Trento, Hauptstadt von Südtirol, la capitale del Südtirol. Sì, sì. Quindi però era una cosa imposta, sì. No? Dall'Austria. Sì, sì. Fino comunque, all'inizio del Novecento. Che fin dai tempi di Napoleone, dal 1850, sì, l'Alto Adige era un dipartimento che si chiamava Alto Adige. Ma beh, per qualche mese, sì, è stato introdotto. Durante sì. Il regno di Napoleone. Sì, per qualche mese. Allora, sì. No? Certo. L'Italia era un regno napoleonico. Però l'avevano chiamato Alto Adige. Sì. Allora, fin da allora, no? Comunque non me l'ha imposto nessuno, cioè è una scelta autonoma di cui nessuno. Comunque visto che siamo in una biblioteca, effettivamente sono quasi sicuro di dire al totesino, ma là che siamo su tirolesi, no? Su tirolesi di lingua italiana. O di lingua tedesca. È bello, no? Si può anche dirlo, si capisce. Una volta ai miei tempi ci voleva più coraggio a dire su tirolese, dire la verità. La no, sigla è visto che siamo in una biblioteca, solo un attimo, volevo solo dire che per chi è interessato a questo, visto che siamo in una biblioteca, c'è un numero della rivista Storia Regione, del gruppo di Storia Regionale, questo, che sì. Proprio su questo. Trentino, potrebbe essere interessante, no? Come poi invece volevo dire una cosa, ma prima lasciamo magari... La sigla EIA, ETE era una sigla, no? È nata come sì, sì, sì, sì, certo. Quello poteva essere ETE italiano, audizioni radiofoniche. Ente italiano audizioni radiofoniche, infatti rimane RAI, poi radio audizioni italiane e poi dopo cambia. Invece volevo dire una piccolissima cosa sulla seconda osservazione del signore, è quella dei programmi italiani o tedeschi. Vorrei citare una cosa che è stata scritta, detta da Lidia Menapace nel momento in cui viene fatto la televisione in lingua tedesca, il Sender Pozza, nel 1966, no? Che nasce così all'improvviso, nessuno se l'aspetta, la Volkspartei chiede a gran voce, anche il Dolomiten, così che non c'era un'identificazione totale a quel tempo, chiedono di poter avere la riproduzione, cioè la ritrasmissione dei programmi austriaci e tedeschi, cioè, o svizzeri, insomma, del mondo di lingua tedesca. Invece arriva questa come un regalo inaspettato e anche non tanto gradito tra l'emittente e il Sender Pozza, e c'è subito un dibattito. Allora l'Alto Adige, che in quel momento più che mai la voce del nazionalismo italiano, dice no, come gli date questa cosa agli italiani, eccetera, tutti contro. E dice Lidia Menapace, dice una cosa interessantissima su cui c'è però pochissimo dibattito, e questo risponde anche al fatto che stare di qua, stare di là è più facile che stare in mezzo. E lei dice, se tutte le popolazioni potessero fruire, scrive un lungo articolo sull'Adige, il 4 febbraio 66, dice, se tutte le popolazioni potessero fruire dei due programmi nazionali, tutte le popolazioni di un programma estero e tutte le popolazioni di un programma locale articolato, penso che ci troveremmo in una condizione che rispetta nel modo più ampio il diritto delle persone all'informazione, il diritto della popolazione di lingua tedesca alla salvaguardia e allo sviluppo della propria cultura e il diritto di tutte le popolazioni di essere poste su un piano di parità. E secondo me lei con grande anticipo capisce quella che è la situazione attuale, cioè il fatto di non essere su un piano di parità per quello che riguarda l'informazione, perché e anche il fatto di usufruire dei servizi a disposizione, perché se uno non sa che esistono è difficile che ne possa fare uso. Sì. È come per i giornali, no? C'era qualcosa. Il Dolomite è molto di più che l'altro, molto di più. Perché appunto la popolazione di lingua tedesca. Sergio, volevi. Sì, sono curioso, no? Si dice che la televisione in lingua italiana non decolla, anzi sparisce per via di una mancanza di interesse da parte dei politici. Non ho detto questo, io ho spiegato il meccanismo, però ho spiegato il meccanismo per cui questo è avvenuto, ma io dico che non c'è l'interesse per di andare contro questo processo. Ma perché secondo lei i politici hanno questo atteggiamento verso un media che in realtà è un media privilegiato, è considerato tuttora il numero uno degli strumenti di comunicazione è quello che normalmente è presidiato anche dalla politica. Io penso, non so, posso provare a rispondere, dice anche se dovrebbero rispondere loro, ma potrei provare a dire così, visto che la maggior parte dei partiti qui sono emanazioni di partiti nazionali e non sono locali, non hanno in realtà una vera relazione forte con la realtà locale, probabilmente sottovalutano molto quello che è l'opportunità che la popolazione locale abbia una forte relazione con la realtà in cui vivono. E credo che questo sia indubbio e questo probabilmente coinvolge anche il fatto che appunto si dà nessuna importanza all'esistenza di uno strumento che invece potrebbe essere estremamente significativo per anche una situazione di confronto anche aperto, anche critico, ma comunque anche basato su un'informazione vera e su la crescita di un rapporto è vero e consapevole con la realtà locale, insomma, in questa linea. Perché non si è mai visto che ci siano degli spazi televisivi non occupati. Cioè, è una cosa talmente enorme che, cioè, pensateci, c'è una battaglia costante ormai da quando il signor B si è affacciato nel panorama nazionale su questo tema. E ogni minuto di spazio televisivo viene contato. E qui invece possediamo una certa quantità di spazi e non li utilizziamo, mi sembra veramente un controsenso. Comunque questo è l'intreccio ancora esistente tra quello che di come era nata la terza rete, no? Cioè nata come rete di cultura locale federale, poi diventa invece la rete di un partito e deve rispondere allo stesso livello, e questo nodo non si è sciolto, perché anche c'è stato uno spostamento di un'attività da Roma a Torino, a Milano durante il periodo del governo Berlusconi, richiesta dalla Lega, c'è anche lì, non so, una direzione, una cosa così, però di fatto non è decollata, non è diventata, cioè non c'era un progetto, perché non era concepita in una ottica di federalismo democratico. Secondo me era percepita più una cosa di dire prendiamoci questo potere qui e lo gestiamo noi, cioè è sempre prevalsa l'ottica di partito, del potere di partito, su invece la democratizzazione, perché lo strumento radiofonico televisivo è uno strumento importante, se viene gestito soprattutto in maniera aperta, con la partecipazione. Qualcuno si ricorda che c'era addirittura lo spazio della partecipazione che veniva lasciato così, no? Cioè, quello era un modo per ammazzarla in quel tempo, perché veniva lasciato lo spazio autogestito ed era... Invece io vi ricordo, ad esempio, com'era stato difficile all'inizio della terza rete, che aveva comportato un aumento delle persone che lavoravano anche alla radio e una diversa impostazione delle trasmissioni radiofoniche, e le trasmissioni radiofoniche avevamo subito, fin dall'inizio, già nell'80, fine 79, fatto una trasmissione, una prima trasmissione in diretta. Beh, la diretta era vista con grande preoccupazione, perché lì non si poteva montare, tagliare, come veniva fatto. No. Io ricordo i Runda Fish registravano 3 ore e poi diventava un'ora, no? I primi anni che lo facevano, perché veniva tutto. Addirittura c'erano delle persone che venivano completamente cancellate. No, anche oggi no. Pro un contro, no, va in diretta, no? Sì, ma penso che Runda Fish sia un vivo differito, adesso non so esattamente, comunque... No, ma il Senda Wozzen credo che abbia fatto grandissimi passi avanti, perché anche questo, cioè alla fine quando ci sono tante persone, c'è la lotta è stata lì sul fatto di avere un'autonomia effettivamente, no? Perché dicevi fino agli anni 60, ma il primo caporedattore di lingua tedesca è stato nel 1977. Kuchera, che poi quello che aveva inventato questa espressione che io ho usato chiacchierando con lui, Trascilla e Caridi, perché Trascilla e Caridi erano i redattori di lingua tedesca, che da un lato avevano lo Stato, cioè io dico, adesso dico lo Stato, che era la RAI, sì. la RAI che gli chiedeva il controllo attraverso e poi che doveva, di cui doveva rispondere al commissariato del governo, al governo, cioè. E dall'altra parte avevano la Volkspartei il Dolomiten, il Kulturinstitut che gli davano addosso perché erano venduti, erano valce, erano proprio venduti perché lavoravano lì. Invece in realtà diciamo la battaglia che venne fatta interna per la democratizzazione, per un uso vero dei mezzi, è interessantissima. Cioè, in parte ci ho anche raccontata molto, qua. Molto affascinante. Altri spunti? Nessuno. Vi ringrazio veramente per essere stata qui ancora nelle ore ad ascoltare il vostro incontro, molto interessante. Allora ci vediamo nel prossimo e grazie ancora. Grazie a voi.